sono con Marco, lui era al ghetto, io a Sassari, e mi ha detto che era una bomba. No, ma l'altro giorno che avevamo fatto la prova in USB, no, SSB mi sembra, adesso non ricordo, la prima banda laterale, e lì eri al centro banda come sulla M, preciso identico, l'altro giorno invece era molto difficile metterti in allineamento. Perché succede? Vabbè, lo sai che questa parte della 27 non sono allineati bene l'uno con l'altro, quindi succede che da uno all'altro può essere spostato di 0,5, ma è una gassata, capito? Roba di regolazione. Praticamente se non ti trovo io, mi cerchi tu, magari tu mi trovi e poi riesco a trovare tutti, capito? No, ma col Typhoon ho trovato difficoltà a centrarti, mentre con quest'altro io l'ho lasciato, mi sono spostato tutto a sinistra a fare delle prove e non riuscivo a centrare, poi l'ho rimesso al centro, siccome c'ha uno scatto centrale in posizione neutra, diciamo, ed eri perfetto. Te lo sto dicendo, io ascolto tutti così, mi anche gli affari che dobbiamo togliere, il metodo che sono perfettamente centrato sia Marco che Claudio, ma lavori tutti e due, che va bene come centratura. Poi anche se si fosse 5 kHz, non badete, roba di regolazione, basta quelle. Vabbè, l'importante è che siano centrati, perché se si fa un questo con più di due persone, se uno è a destra, l'altro a sinistra, l'altro al centro, viene male. Meglio che siano tutti centrati. Ma non dipende da me quello, però dipende da chi non è al centro di banda, capito? Io sono al centro, poi c'è gente che è spostata. Per dire, con quello spagnolo io mi sentivo bene tranquillamente, invece con Dio Maria e con gli altri, no. Poi si sono sintonizzati bene e mi hanno trovato subito. Capo, a me come mi ascoltavi? Bene, al centro o come l'ho spostato? No, ti sentivo un po'. Come già, non ho capito. Un po' spostato ti sentivo. KK, riprendi Mario. Lui avete già caricato, io stavo preparando, davvero. Mai così. Comunque, la 27 mi sembra che quando l'ho lasciata era un ciambotto e adesso mi sembra che sia ancora di più. Perché siamo quattro lati e diamo fastidio. Avanti. Capole, non c'è per la bianca, come va Polè? Vabbè, faccio un attimo con Rix. Papa Gianni. Paolo, non mi hai sentito, come mi ascolti a me? Paolo, mi ascolti? Paoletto, attento Paoletto. Paoletto, mi ascolti? Ora non mi dico più Mario, lo senti tu? Ma negativo, è sparito anche tu da me. Ma lo senti con me e poi di colpo c'è un pazzo. Gianni ha detto che un attimo in quel Rix. E beh Mario, ma non puoi fare niente per la pentola. Come non posso fare niente per la pentola? Tu hai un telecomando come il cui quando si arriva in una macchina e chi c'è un telecomando ha tappeggiato tu brotto. Magari posso dire ma non è un problema, vabbè. L'importante di essere qua è partecipare pure, anche se non vinciamo, non fa niente. L'importante è che bisogna sempre la mangiare, uscire. Cappa, è importante che non manchi mai niente. Davvero, perché altrimenti sarebbe un guaio la vita. Papà, guarda bisogna la pasta da metterci dentro l'acqua, se no non rimane nulla, dici, tu ti devi far buddire la mentola o quello che c'è, se non c'è niente da mettere dentro. Ma oh, la pasta di aceto e tutto, mi ho comprato il ragù, quello pronto, perché l'ho finito ieri notte e nulla. Adesso bisogna rifarlo, però sai come succede, no? Un po' perché non è lui, un po' per questo, un po' per quell'altro, e poi per dove la perdo, ma lo compro. E poi stasera quando rientro vuol dire che organizzo la pentola di sugo e mi preparo il sugo però per 3-4 giorni. Ma già sono io stesso questi malatori, io lo prendo spesso mia moglie, ha preso dalla Barilla, è buono, ci tagliamo con i peperoni, con le olive, già pronto, non stai a perdere tempo, lo scaldi appena e lo metti in mezzo. E infatti anche io faccio così, quando non c'è la moglie solamente che non è sempre che lo posso fare io, la pizza, perché se fai sempre così diventa un guaio, perché sugo che non basterebbero più. Allora bisogna che me lo faccio io, il sugo, niente, anche perché è un baraccolino da nulla, condisce due pasta asciutte e non ce n'è più, capito? E costa un po'. No, vabbè, quello lo usi in caso di emergenza, quando sei in fretta, non vuoi perdere tempo, perché se non sai tutti i video, prendi il drone su baraccolino, se no te ne basta la gana. No, stasera mi avevo reso la pentola, ne metto due o tre di queste passate, lo faccio cucinare un'oretta e poi me lo metto dentro quei barattolini. E così ogni volta lo apro uno e lo consumo, altrimenti se ne accedisce, si fa. Invece io quando è caldo gli metto un goccio d'olio sopra e li chiudo e poi li metto in frigo. E va bene, per tutta la settimana molte volte mi fa. KK, vediamo se è rientrato Gianni. Gianni, ci sei? Vediamo, Paoletto, mi cuffi? Ci sei, Paoletto? Paoletto, già spesso Gianni, affondato, riprende tu Mario. Federica Ballacci, Mario! Paoletto, mi ascolti? Sì, sì, va bene, ciao Paoletto, ben sentito. No, ti abbiamo chiamato prima con Mario, c'è scomparso. Erano le buchette, erano le buchette lì, sono negativa per me, capito? Ma comunque mi ascolti? Positivo, positivo che ti ascolto, Roberto. È già finito, o sei in pausa a pranzo? Scende la porta a torre, se sto a mi sa che per oggi gliela finiamo così la giornata, che oggi proprio non ne ho voglia, ho fatto due minuti di seguito e non ne ho voglia. Ma domenica non sei andato a Cagliari? Positivo, domenica sera sono sceso, ma sono rientrato presto, poi sono sceso anche lunedì sera. Gappa, vediamo se è rientrato Mario. Mario, ci sei? Certo che ci sono. Andiamo, sono per buttare la pasta. Niente, l'ho accompagnato io domenica sera, non c'era una cucana in frequenza. E domenica c'era la partita? Lo so, però Paoletto era solo Sorrento, io l'ho fatto accompagnare su Nacidigo. Nacidigo addirittura? Gappa, io vicino a Nacidigo, era lontano. Vabbè, ma ci sono queste montagne dietro che ti disturbano. E beh, Paolo, dove sei adesso? Qui, sono appena uscito dalla buca della camionale, Rome. Qui, quando lo sei con io in carica. Gaffa, gaffa. Magari lui lo sentiva se l'amore, non l'ho detto. Però una volta che non ci ascoltiamo più è un casino, ho capito. E magari lui ti arriva, tu gli arrivavi a lui, magari lui non riusciva però a trasmettere. Quando si è in barra mobile purtroppo è così, la sessione fissa non è male, si innamora se ci arriva, poi non sono tutti che riescono a trasmettere da lì a qui, capito? A meno che non c'hai un'antenna di quelle belle grandi sul camion, no, con le grosse, sennò a un certo punto ti perdi anche tu. KK, vero male? Positivo Mario, positivo poi adesso. Ci sono gli emi del giro di questi giorni al Fontana a Pulella o in cavolo l'antenna. KK, bene. Allora si lo fa. Allora, siamo nati per simulare. È vero, nient'altro. Comunque, non si è fatto più sentire un dirigente, un dirigente sta chiudendo di nuovo il baracco. Non lo so, io non riesco a capire, ho visto, infatti stavo parlando poco fa con Gianni, lì c'è gente che sta creando problemi. Gappa, stanno creando la nostra modulazione, qualcuno che non sa cosa fare, ce ne stanno mandando la caete, giustamente la gente si scuccia, cioè io se avessi avuto la patente sarei andato tranquillamente, la patente non è uno e io non faccio manco certe cavolate, perché quello lì sa solamente cavolate, perché lui ti nei guai, la gente gli innocenti non è cresce, tutto lì. Ma diciamo che se fanno i controlli come devono essere fatti già se ne accorgono che la modulazione è diversa da quella che può essere sulla 27, se è traslata così si è registrata. Ma ci vuole un ricco buono per accorgersene, un per forza, può essere chiunque, così che tu non sai niente, se gli arrivi tutto magari ti trovi ad affrontare guai che non ti aspetti, perché tu dici ma io non ho fatto niente, però purtroppo succede. E magari uno prende il microfono della KF e la poggia in ricezione su quello che sta ascoltando, sta parlando sulla 27 e te lo manda su un'altra banda. Questo si può fare, capito? Però purtroppo non si accorgono che così facendo danno problemi a tanta gente, anche se non lo vuole. Io non riesco a capire che cosa ne ha di vantaggio uno a fare una cosa del genere, proprio una cosa da imbecilli, oltre che da vigliacchi. Beh, cosa ti vuoi fare con me? Purtroppo non sai chi è, giustamente tutti lamenti perché vieni a saperlo, perché in qualche modo qualche radioamatore si conosce, qualche, e giustamente ti dice Mario, guarda che sta succedendo questo e questo. Ma lo dice a te, e agli altri non lo dice, e giustamente quello va a finire. Che uno dice, ah, così, vabbè, da oggi non muoverò più. Chiudo tutto e buonanotte al sitio. Capito? Perché io ne conosco tanti che hanno l'apparato in casa, e dentro l'armadio conservato non ne toccano. Perché non ne toccano? Perché dice, se sei il malato, lui il mio, bisticciare, fare. Niente. Purtroppo, meno male che siamo in pucchi, guarda se fossimo stati in tanti. Cosa bisogna fare? Scusate, sento così. Ogni tanto bisogna dire il canale su cui ci troviamo, la frequenza, se non c'è la frequenza, si segna la frequenza, bisogna sapere 26, 27 qualche cosa, mi pare che sia. Basta dirla, quindi se registrano se l'hanno presa all'occhio. E lì 27.075 sono le 13.40, questo è il canale 10. Sta modulando Gianni, Doppio Rumo, Roberto Quadrato e Mario Manser, per tutti gli ascoltoni e per tutti i furbi. Gianni! Ciao Paoletto, dove sei? La ragazza, non più la bambina, per portarla a casa, che è uscita dalla scuola adesso e poi me la va tutta a mandigare. Avanti Mario. Mario deve essere il sta girando il sugo Mario. Mario. Ma, c'è la tana qua al fuoco? Non voglio fare così via il canale con la frequenza, di modo che noi almeno ci abbiamo le spalle coperte, perché se qualcuno qui ti vuole male ti fa passare casino. Ma capa, ogni tanto lo ricordiamo, a turno, così evitiamo, come è tutto una cosa buona. Ci troviamo sul canale 10, la frequenza 27.075, cazzo. Confermo anche io, ci sono anche io. Così almeno ogni tanto. C'è la tronca. Alla fine ci rispondono e ci dicono, no, l'abbiamo capito, e ci hanno detto. Se non l'ho capito non se lo pensa di me, mio lì. Già lo vedo, se vuoi capire capisca. Ho detto il discorso, Paolo. Io stavo seguendo il discorso, no? Qualcuno che invece di fare scherzi, invece di farli agli altri gli scherzi che li faceva da solo, Ponte Rosello è sempre lì, mi. Gappa, e se non basta Monte Rosello, già avrei pure Monte Rosello, basta la cazzo Monte, ma è così fissi dentro, già avrei. Vabbè, se no ti puoi lasciare questa Porto Torre, una corda alla pietra gliene prendo io, mi, se ne lega il collo e ci butta a mare. Gappa, ce l'ho anch'io di corde, i piedi, vabbè, pietre già ci sono, le corde già le busco io. Allora, un attimo che vado alla 5. Ehi, riprendi già. Ehi, Gappa. Andare, cosa mi va? C'è sempre questa gentaglia qua, Anzi, prima di queste cose la si sentivano addirittura. Si sentivano altre cose, ma queste qua no, di traslati dalla frequenza no, non si sentiva. Ma questo anche Gianni, lo possiamo fare anche senza registrati. Quando sto strapendendo e trasmettendo io adesso, uno attacca il microfono all'altoparlante e lo manda su un'altra banda. No, non si registrano proprio tutte le conversazioni, capito? Si registrano le conversazioni. Sì, ma dico, possono anche farlo direttamente in diretta, senza registrare. Se registro le conversazioni, già, uno lo vede, non è cieco che il segnale è sempre quello. Invece, manda la modulazione tu adesso a caso. Poi magari può mandare la modulazione mia, capito? Sempre a caso. Però non lo fa mai dallo stesso momento perché addirittura non è stupido, dice cazzo, ma questo segnale è sempre lo stesso. Capito? Immagina che c'è sempre una persona che invece lo fa un po' per volta e un po' comanda a te, magari un po' comanda a me, un po' comanda a Roberto, un po' comanda per dire un nome così a caso, un picco pallino, capito? E magari così non se ne accorge. Poi invece di quella maniera là, se registra la conversazione, vede molte risposta registrata e se ne accorge perché il segnale è sempre lo stesso. Anche perché è difficile che uno pensi di segnarsi con quale segnale stia arrivando. Mario, come fai a saperlo? Perché anche tu c'è lo stesso segnale che stai parlando normalmente. E quindi possono sempre pensare che sia la persona, non che sia una registrazione. Appunto per quello. Però lo fanno diverse persone e diversi giorni. Capito? Non è che registrano una conversazione mia e tua, che vede che tu mi dici la domanda e io ti do la risposta. E dice, questi due parlano e hanno sempre lo stesso segnale qua, in quella frequenza là che sto parlando io, eh. Ah, ecco, vuol dire quello, sei tu persona, ho capito. Quello è vero. Non so, ma queste cose magari non si notano all'inizio, dopo magari pensandoci riesci a capitare certe cose, però nel momento non le pensi. Oh Gianni, quando fanno i rilevamenti però tutte queste cose le controllano, registrano la modulazione, hanno un misuratore di campo che ti dà il segnale, la registratore di spettro ti dà tutte le armoniche, ci sono un sacco di cose di particolare, non è che uno se ti vuole male prende, registra e te la manda sulla frequenza, poi vengono a casa tua, fanno la prova e dici no, questo è un altro segnale, se ne accorgono, hanno le controprove, hanno tutti i nastri. Comunque sono sempre cose rognose. Sono cose erroneose e poi quando magari si puntano su una persona lo fanno più volte e sono cose che danno fastidio, Sicuramente sono delle errogne, devi essere tu a dimostrare delle cose di altre persone, devi dimostrarlo, tu dici fammi la prova, attacca l'apparato, vieni, mettere avvocati eccetera eccetera. Presto, avanti, ti sentite da nuovo? A poi ti sentiamo Cristian, buongiorno. Buongiorno, come va lì? Tutto bene? Tutto bene, da te in vita come va? Benissimo, ci sarà Dio. Cattolo, poi sono contento per te, il lavoro come va? Benissimo, si lavora bene, gli orari sono bellissimi, ma c'è molto riposo anche. E che orari fai Cristian? 7:30, mezzogiorno, 1:30, 4:30, se va voi, tutto di libero. Caspita, abbia con te. L'officina com'è grande? Non c'è meno male. E come stazione cosa c'hai là? Un piccolo apparato mulino. Vabbè, uno lo so che cosa è. Già lo so uno, ma stai entrando, c'è gente, ecco, quello voglio sapere, ogni notte. Entro pochissimo, ma non c'è più niente, sono adesso, sto già da fare, basta. Gaffa. E va bene. È quello che va bene. E adesso ci sono i DX, te ne freghi degli altri. No, se mi arriva la Sicilia, la tiratura di balla a testa, non arriva quasi. Gaffa. Sicilia solo, Spagna, Francia, Polonia, tutte e quattro, li sentite già. No, no, mi arrivano tutto benissimo, ecco, mi arriva già tutto benissimo, sono tranquillo. E beh, già, dove sei adesso? Al Ponte Nuovo. Ah, non sei ancora rientrato a casa? No, c'è una fila al ponte, non si capisce per che cosa, c'è una fila enorme, esorbitante, va. Sì, chilometri. Cappa, cappa. E beh, Mario, ci sei ancora? Mario, qui lo sai. Anche se si sposta e fa, Mario è qui. Adesso ho finito la patacciutta, adesso mi devo controllare la pancetta. Mola la rusa, Mario, mola la rusa. No, io non mangio quella rusa, mangio un bucciato e una buchetta, e un rusito. Ma la rusa non te la devo pulire un piatto, Mario. Vabbè, ma io sono andato su come ultimo. Senza cercare nessuno, senza parlare male di nessuno, come come si può parlare uno davanti all'altro, né più né meno. E tutto va avanti. Tanto questi signori che si dilettano a diciamo così, a registrare, e poi lo trasmettono su un'altra frequenza, se ne accorgono tutti. Capito? Dunque, non preoccupatevi. Vabbè, quello che ho detto io, se si mettono a fare controlli, diciamo, fatti come devono essere fatti, non se ne accorgono subito, però sta di fatto che lì si tirano le orecchie a chi deve controllare, lì dice stiamo attenti, lì vengono delle idee brutte in testa, eccetera, eccetera, e vengono a rompere le scatole a lui che non stiamo facendo niente. Oh, a te dovrebbero cercarsi, che a me, né a Gianni, né altro, vanno a cercare il pesce grosso, se ne accorgono chi rompe, rompe, rompe. Capito? Stai tranquillo. Sì, sì, sicuramente se vogliono se ne accorgono, ne tolgono i molti da sottoterra, non ci sono problemi, però dispiace che ci siano delle persone, io li chiamo vigliacchetti, non vigliacchi, vigliacchetti che facciano queste cose. Purtroppo, come vedi, ci sono. Che cosa vuoi che ti dica? Ti ho detto, meglio in verticale, non raggiungere nulla qua perché tanto mi... c'è sempre chi ci becca. Vabbè, cambiamo discorso al momento, se no non ne usciamo più qua. Beh, tu, ci hai mangiato tutto a posto. Ero leggermente incacchiato, perché sono andato a mezzogiorno e mezzo a fare la spesa alla pizza, qua in via Giovanni Pascoli. Guarda, c'erano quattro casse chiuse a mezzogiorno e mezzo. Hanno aperto un'altra. Questa ragazza arriva, vede la spesa di una, signora, tutta questa spesa. Adesso ti rendi conto una cassiera che si mette a discutere, a dire tu, c'hai una spesa troppo grossa, ce l'hai troppo piccola. Ma ci servono cose da fare. Questa impapinata con la cassa perché ci aveva la carta di credito. Questa incatenata perché quella voleva la scheda per il telefono. Ci stava mezz'ora in una cassa e gli altri quattro chiuse. E nessuno che diceva niente se ne accorgeva. Vabbè, io già non ci vado, io vado solo qua vicino a Mutineddu, ci sono tre commesse, una ti mette ti toglie la roba dal carrello, la mette sul rullo continuo, l'altra che batte i prezzi e l'altra te la rimette dentro le buste, dentro il carrello. Non faccio niente io, velocissimo, se ci perdo 5 minuti alla cassa è troppo, esagerando. Ma qui, vabbè, non è tutti i giorni, ma quando si incatinano, no, non è che... E se il sabato mi mettono i rinforzi, appunto la gente, la ragazza che mette la spesa dentro le buste e si imbarcano subito. Però stamattina ti dico, quattro casse chiuse, quella che chiamava e non si affacciava nessuno. E purtroppo anche lì ci sono i furbetti, diciamo. Però io dove vado io ti posso garantire, io tra fare la spesa, prendere la roba e uscire, non ci metto più di 20 minuti, mezz'ora, esagerando mezz'ora. Mezz'ora ci devo stare io a farmi la spesa, non tu a buttarmi fuori, è proprio quello che sto dicendo, non devo stare io mezz'ora nella cassa, io posso girarmi e starci anche due ore a comprare lo scatto di pomodori, però quando arrivo alla casa mi devi svegliare subito e non devi discutere tutta questa spesa, tutta questa non spesa. Quando mai una cassiera va a dire al cliente sta girato tutto il carrello pieno, ma non ti sembra un po' fuori luogo? Sicuramente quel tipo di lavoro quella tipa non lo fa con passione, lo fa soltanto per prendersi lo stipendio e basta, e non si rende conto che se tu non fai la spesa quel negozio chiude. Sì, c'è molta gente dovrebbe accorgersi di queste cose, ma succede un po' dappertutto. Diceva mia figlia stamattina lamentandosi. Sono andato a comprare un paio di scarpe, dice al piano superiore ci sono gli sconti. Va al piano superiore, signora ci serve il 41, se lo scelga. Purtroppo diciamo siamo di mentalità, gli italiani sono così, furbetti, gli italiani sono nati furbetti, ci sono delle persone diciamo che ci tengono al lavoro, che ci rendono conto, ma ci sono tante persone non ne frega assolutamente niente, dice tanto lo stipendio sta sempre andando, sono in malattia quando alla minima fesseria, subito sindacati eccetera eccetera, poi c'è qualche problema e non fa denuncia, poi ci sono quelli che se ne fanno il matto e lavorano pure per quelli che non fanno niente. Succede dappertutto. Vai a Conforama, chiedi una cosa, dov'è la gentilezza che hanno? Domani? Sì, è perché provo ad andare a quello 1 euro. Infatti di lì ha perso un po' di clienti, almeno da parte mia, perché nel formato di comprando delle cose, alla fine mi sono stufato, ho detto, beh, fa una cosa, esci che vado un'altra parte. Sono andato senza dire manca pubblicità Media World, ho trovato delle persone, forse che ci tenevano di più al posto di lavoro, mi hanno dato importanza e ho comprato di lì quello che dovevo comprare. Tanto il prezzo era uguale e da 1 euro come seconda spiaggia lo uso. Prima vado alla Media World e poi vado da 1 euro quando devo cercare la parità di prezzo, stiamo parlando. Sì, così succede un po' dappertutto. Vabbè, ti lascio che mi devo preparare quasi il secondo almeno, che ho mangiato solo il primo. Vabbè, riprendiamo più tardi, stai sentirsi. Papà Cappa, buon appetito, se mai a dopo se ci sentiamo, se no quando ci sentiremo. Ciao di nuovo Manolo. E vabbè, comunque fai come ti ho detto, entra tranquillo, chiacchiera con chi trovi, quattro contratti così come ogni una cosa dell'altra, e non preoccuparti, tanto ti ho detto, sanno a chi pescare, non sanno dietro i pesci piccoli, noi ci comportiamo bene, non ci posso mai fare niente, anche se mettono l'antenna direttiva, a chi acchiappano, a chi trasmette con 50 watt, con 100 watt e magari insomma vedi che non fa a parlare. D'accordo, ciao, risentirci. Ciao, ma allora, riprendi Mario? E Luca, lo sei sentito oggi? Luca, ci sei? Galli, sei arrivato? Vabbè, non vedo nessuno, dai, se vuole entrare entri. Devono essere sempre meno di là. cose che usi, visto che tutto costa, se ce li hai 120 in tasca non hai che gli spiaccia. Confermo, sì, io, non ci mancherebbe. Vedrà chi ce l'è migliore. Vediamo se Gianni è rientrato, ci sei Gianni? Forse Gianni va direttamente a mangiare, va bene. No, Gianni arriva a casa e trova già la del pranzo pronto. E dopo pranzo si fa anche la pizzichella. Guarda, ma la moglie di Gianni lavora o è casalinga? Ma a dire la verità, non lo so perché non è una cosa che mi interessa, non me l'ha mai chiesto. Anche perché a me non me la frega nulla. A me mi sta bene quando facciamo due chiacchiere, passiamo, ci troviamo, ci beviamo un caffè, come succede tante volte, niente. Poi, nella sua vita privata e cosa, non è che non mi piace manco parlarne perché sono cose private. Se non è lui che le dice, non ci posso fare niente, capito? No, non l'ho detto per nessun motivo, ho detto soltanto per vedere se lavorava, se corrispondevano gli orari, solo per quello. La lettera, vabbè, non so molto cosa dirti, non si vede no, perché non lo so. Vabbè, non c'è problema. E cosa volevo dire? Beh, ha già potuto giù con mangiare. Che ne ho un altro motore, e poi mi faccio il caffè e sono tranquillo. E tu l'aperitivo? L'aperitivo, il mirto, dico, un coso, un digestivo, dai, non un aperitivo, scusa, ho sbagliato il termine. No, io non la bevo. Ma no, neanche io, no, ma qualcuno per digerire ci serve il digestivo, sono un mirto, qualcosa di simile. Diciamo che a casa io non piglio niente, perché non piglio niente. Se sono al bar con qualche amico che ho un ristorante, allora capita che il digestivo lo prenda, ma non è una cosa che mi faccia uscire pure di testa, ma io li curi, ma non avevo meglio, Non farmacia, non ti perdi niente, eh? Se la salute buona si comanda. Beh, può capitare che magari, non so, ci incontriamo, siamo a pranzo, che un mirto me lo bevo, non è che ne cade il mondo, però non è una cosa che va molto a richiesta da parte mia, là. Ma faccio volentieri almeno, non mi succede nulla. Anche io sono così, no, ma c'è a casa mia, mio fratello, quello dopo pranzo lo prendo il termine, ormai si è abituato per digerire, io sinceramente mai, non mi da fottino, è capitato qualche volta, ma non ne sento la necessità. Ma Luca, non sei sentito Mario oggi? Ma guarda, io sono tre giorni che non lo sento a Luca. Anche ieri lo stesso non l'ho sentito, vabbè, ieri sono stato molto tardi. Era stata le 10:30 di più, dopo che c'era il coso di Berlusconi. Ma io non ho guardato manco quello, guarda, tutto perché non me la frega niente, no? Intanto, vabbè, è inutile che noi guardiamo, ascoltiamo, facciamo. Intanto, purtroppo, che tirano i piedi sono sempre loro, e noi dobbiamo stare lì a guardare. E sì, vabbè, quello è logico. Però alla fine sono loro che decideranno, non siamo mica noi, siamo l'ultima volta del carro. Lavoro tu oggi, più leggero come al solito? Ma oggi molto leggero perché sono andata con la sua, c'erano i giardinieri, che hanno pulito un po' di tutto, hanno caricato il cane, sono andato scaricato e c'è stata la una. E così che adesso non lo so stasera cosa ci sia, allora ma siamo lì, se come stamattina è una pacchia. La pacchia, ma voi siete solo installatori o anche venditori grossisti, vendete attrezzature termoidrauliche? No, noi vendiamo e facciamo anche le installazioni, vendiamo a termoidraulici, cioè a impiantisti. impianti, però facciamo anche impianti, perché purtroppo lui ha deciso così, capito? Anche se una volta mi hanno detto che non è giusto, se lui è un negozio dovrebbe fare solamente la vendita, non l'installazione. L'installazione dovrebbe farla altra gente. Siccome tutti quanti vorrebbero mangiare al quattro garage, allora è giusto anche così. Vabbè, ma lui forse dice per guadagnare ricchi, per guadagnare qualcosa. Dimmi una cosa, cosa vendete voi, caldaie di che genere? Tubi d'acqua, quelle cose lì ce le ha messe? Certo. Ma non lo sapevo, l'ho saputo adesso che ho visto. Oh, il segnale se ne sta andando, mi senti sicuramente più basso, stanno appoggiando la fila della batteria. Basso arrivo da te. Ma per adesso ti ascolto sempre uguale. Ma anche pompe di calore vendete? No. E ma ci servete voi di pompe di calore? Ma noi ci abbiamo la Toshiba, mi sembra che abbiamo, poi c'avevamo l'Italprima e un'altra marca che adesso non mi ricordo, però niente, capito, ne teniamo poche noi, perché poi secondo che richiesta c'è si parla di un eletto pure, per dire, non so, tu chiami un po' installatore che serve, non so, mettere il pannello solare, quello o quell'altro, non è sempre che lo facciamo arrivare da noi, perché molte volte ho scelto il tanto e il materiale arriva per lui direttamente a casa tua, capito? Quindi poi non devi fare un altro trasporto dal negozio a casa tua, capito? Secondo che cos'è se fa ordine diretto? Ma se le caldaie ad azzurro che faccia a messa e a gas? Allora, a gas ci avevamo le Cosmogas, poi ci abbiamo le... adesso non me la ricordo, la Silver e qualche altro ce n'è. Poi come caldaie a gasolio ci abbiamo la Lamborghini e la Chimical, che è la sorella stretta della cosa, della Riello, perché le fatture sono sempre il Riello. Una cosa, stavamo una discussione con un amico l'altro giorno, in una caldaia a gasolio, se ci metti cherosene, funziona lo stesso o crea problemi? Beh, di solito quella caldaia, se brucia il gasolio, brucia anche il cherosene, non è che cambia di molto la situazione. No, ma non c'è pericolo di esplosione o di qualche cosa, che ci sia da qualche guaio? No, non succede nulla, perché lì ci sono due litri, il gasolio viene nebulizzato e buttato dentro praticamente, e due litri passano a bruciare, è come una camera di scoppio comune. No, perché io ci servo, il kerosene è molto più, c'è il potere calorifico molto più, cioè molto più infiammabile del gasolio, è come la benzina il kerosene, magari fa una scintilla e scoppia tutto. No, negativo, anche perché non fanno mai combustione a sé, capito? Quella lì è la macchina che se la aspira, perché il bruciatore c'ha anche la pompa di aspirazione del gasolio, non è che gli va dentro così per caso, se la aspira entra praticamente nel suo circolo, viene nebulizzato e buttato fuori dagli gigli. Poi davanti agli gigli ci sono gli elettrodi che a quel punto lì sono incandescenti e bruciano tutto. Quindi teoricamente può andare anche a cherosene, ho mischiato cherosene e gasolio, tutti e due insieme, non lo sapevo questo. Sì, infatti il cherosene lo usano gli aerei, per cui sicuramente la raffinazione è molto, molto più fine, più, cioè, strutturata rispetto al gasolio, è sporco come diciamo il primo stadio della raffinazione, e alla fine arriva la benzina, diciamo l'ultima raffinazione. Considerabile un impianto a gasolio rispetto che a gas, o cosa dici tu? Ma siccome i prezzi sono più o meno equivalenti oggigiorno, sia tu lo vedi con la benzina, cioè la benzina costa quasi quanto il gasolio, così che oggi siamo quasi a parità di prezzo, mentre che il gas costa ancora qualcosa in meno, capito? Secondo me è più conveniente il gas, momentaneamente, perlomeno per uno che ha una casa piccola che lo accende per dire un'ora e mezzo, la casa si riscalda e va bene. Poi giustamente ci sono quelli che hanno grossi ambienti e allora preferiscono la caldaia a kerosene, gasolio, come la vuoi chiamare, capito? Però c'è sempre la stessa cosa, sia la caldaia a gas che dà l'acqua sanitaria e sia la caldaia a gasolio che dà sempre l'acqua sanitaria ugualmente. Tappa di caldaie che sono migliori, quelle Riello o quelle Lamborghini? Perché Lamborghini la conosco solo di nome, Riello le ho sempre sentite parlare bene. Le Riello, diciamo, è una marca che tende battere al campo vendendola parecchie, capito? E costano un po' di meno, ma giusto un po', mi sembra che costino 300-400 euro in meno da una caldaia all'altra, capito? Però la Riello, io in quest'anno mi sembra che mi avrò consegnato almeno 400 in tutta la Sardegna. E tutti quanti sono contenti perché oltre che risparmiare soldi sono anche caldaie affidabili, tutto lì. No, volevo dire, le Lamborghini come sono, come costruzione? Sono fatte bene o più economiche della Riello? Guarda, più o meno sono le stesse, cambia il nome, sia sulla lamiera che sul bruciatore. Perché nel bruciatore c'è scritto Lamborghini e in quell'altro c'è scritto Riello, tutto lì. Però la Lamborghini è un po' più cara. Ah, più cara, però siamo lì come qualità, là. Sì, beh, giustamente poi vai a parlare con, diciamo, il manutentore della Lamborghini. Lui vede solo Lamborghini, però perché c'ha la percentuale dalla Lamborghini, tutto lì, mentre che la Riello è una marca più sempliciotta e meno male riescono a gestire un po' tutti là. Cappa, diciamo, ce ne sono di più, per cui è anche più facile trovare i pezzi e ripararle, quindi. Cappa, no, i pezzi si trovano anche quelli della Lamborghini, solamente sai che la Lamborghini c'ha il toro, è così che niente, capito? Perché la scritta Lamborghini, come disegnata sulla caldaia, la stessa scritta c'è sulla macchina, diciamo c'hanno anche il nome, si fanno parlare anche il nome. Lamborghini è quello che costruiva le macchine, la Countach, la Coso, la Diablo, le ha fatte, adesso se l'ha comprata la Volkswagen. Non lo so io chi li abbia comprati, no, ma non credo, non credo, perché quello che ho saputo io hanno fatto il gemellaggio, ma non è la Volkswagen, è l'Audi, infatti hanno fatto l'Audi che monta il motore da Lamborghini. Sì, io sto parlando delle vetture, il gruppo Volkswagen, dove c'è Audi e Coso e Volkswagen, Fiat, eccetera, si ha comprato la Lamborghini vetture, poi c'è la Lamborghini termoidraulica, quella penso che sia rimasta ai vecchi proprietari. Ma non c'è solo quella la Lamborghini, c'è un po' tutto, ci sono i trattori, c'è un po' di motori delle barche ad alta prestazione, a motori fa grossi motori ad alta prestazione pure. Rosse, accese la scarica. Ma la radio qui è sempre la stessa.